mi ho acceso adesso così a vedere chi c'era. Ho visto che no, sui canali alti non c'è niente. Allora, stavo per cambiare radio, ho sentito a te. Capparoccia. Sono stati dei problemi, allora la sezione ha deciso di non partire. se poi mai sono rientrato a casa, ma da giorno e mezzo ero già a casa, diciamo, prima dell'una. Portate con la radio, sì. Sì, portate. Tutto a posto, adesso vado a lui cosa fare e poi vediamo, capito? Tanto che basta per assaggiarla, è tutto qua. Allora, le ho pulite, adesso le sto facendo bollire, quando sono fredde poi faccio il sorrentino fresco con i pomodori freschi. Allora, prendiamo un pochettino di olio, e stanotte me le ciuccio, stanotte mi metto tutto a ciucciare. Facevamo noi, vabbè, allora so, ma lì ho ti guardi tutto. Noi quando andavamo, l'ultima volta che siamo andati a Natalino a vedere Scalapicchiava, esattissimo, vabbè che io ero secondo intermedio, mi pare, quindi c'era un uomo radio, ogni tanto mi chiamavano dalla postazione centrale, mi chiedevano il passaggio delle macchine, il numero del passaggio. Una volta che avevamo tutte le coordinate, andavamo a smangiare bene. C'era la... è un Ministro della Macchina di Genova, capito? Marchette e compagnia bene, ma quella che mi ha impressionato di più con la specie di macchina bianca, tutta modificata, tutta fatta col motore Kawasaki sotto. Ma dove vedete come è partito a razzo e... Oh, yeah, mamma mia, com'è stato. Sicuramente ci sarà stato anche il figlio di Magliona, no? Esatto, c'era anche lui. Sì, e quindi non ne vale la pena, nel senso che c'è da annoiarsi e da prendersi insolazioni o là. Sì, se non si è organizzato, per un attimo, se non avete chiamato, mi sono allontanato un attimino. Se non si è organizzato, non fa perché non ce n'è di posti da metterti sotto le rocce, come può essere scarapicchiata, alberi, eccetera, capito? Oh, io faccio un attimo di bianco, scusate. K di Roger Falché. Sì, ma era solamente... Ah, ieri c'erano le cose, le prove, oggi quindi c'erano le cose. La gara vera e propria. Ma era una gara in salita, no? Sì, c'era Birilli praticamente, capito? Il drone. Lo drone del buon Ariosio. Ogni tre... Allora, sono la partenza... i 100 metri dopo la partenza ci sono i birilli, quindi devi passare in mezzo senza toccarli, altrimenti è la penalità. E poi al quarto, al quinto intermedio ci sono di nuovo. Una bella gara, la Buona Riosero è storica come quella di, adesso non mi ricordo, di Novitura. Dunque c'è un'altra che fanno qua in Sardegna, ma la Buona Riosero è storica, capito? È come la Scarapicchiata, la stessa cosa, perché la Scarapicchiata c'ha degli ostacoli che tu devi superare nelle posizioni che poi la commissione decide di mettere, capito? K, soldato, quella lì si fa ad Alghero, non se non sbaglio, Scarapicchiata ad Alghero. Ah, è la Scarapicchiata ad Alghero, è più lunga però, rispetto alla Buona Riosero, molto più lunga. Perché la Buona Riosero quant'è come distanza? No, la Buona Riosero, partendo dal Bullare, mi sembra che arrivare alla piazza su, dove c'è il mobilificio di Magattia, perché poi si gira la curva e si entra dentro, saranno 8 km, non di più. Quello che ti dicevo stasera, allora, ma a te quando schiacci portante con la cosa da 35, con l'alimentatore da 35, ti si abbassa leggermente la luce dello smitter su questi apparati? Soprattutto, aspetta, succede questo, anche sul rosmetro, io vedo che come parlo si abbassano le stazionarie. Sottoalimentato, allora, o quella radio è troppo alta di potenza, o te l'ho già detto, quella radio tu la metti a caldo, praticamente adesso tu te la regoli con la portante a Santiago 9, ok, e poi parli e guardi quanto va avanti, dimmi sino a dove arriva, a vedere. Guarda che avevo il processore disinserito, Allora, portante, aspetta però un attimo, scusa, ma con la C, con la LC la portante è 9. Praticamente, guarda, dovrebbe essere... 20 e dopodiché riscende a 7 e si risezione, cioè si rimette sul 9. Quando parlo sempre, però se guardo l'osmetro esterno, chiaramente, mi scende, le stazionali tendono a scendere anche i watt, almeno qua, e dopodiché l'alimentatore tende ad avere picchi negativi, nel senso di amperaggio. Allora sono passato con questa, così siamo un po' più seri. È ancora troppo alta, devi portare lo slider del power leggermente più basso del 9, portalo a Santiago 7. Scusa, ma come mai non ce la fa questa radio, visto che c'è, cioè, questo alimentatore, visto che è un alimentatore da 35? Un attimino. Antonio e Claudio, guarda che per fare quel lavoro lì ci vuole carico fittizio. Non puoi fare quel lavoro lì perché c'è il rientro di RF. No, Sandro, stiamo facendo un'altra cosa, non c'entra niente con quello che dicevi tu. La radio è chiusa, stiamo solo cercando di capire a che potenza sta lavorando quella radio, siccome io sono qua lì a casa sua. Io mi accorgo subito, no, non stiamo facendo nessuna regolazione all'interno. Porta il segnale, quindi il power, lo slider del power, portalo a Santiago 7 e guarda se continua a abbassarsi la luce, oppure se gli ampere stanno lavorando in positivo. Prova. Adesso stanno lavorando in positivo, aspetta, cioè da 7 che tende a salire a 9, 10 e poi riscendere a 5 e riassestarsi sul 7. Gli ampere diciamo che hanno un leggero calo, ma leggero. Vedi, quindi come dico io, tu quella radio devi tenere così a caldo, quindi adesso che è regolata così, tu la devi tenere così. Quando la accendi, invece di modularci subito, la lasci una decina di minuti accesa, perché il 140 non ha il controllo automatico dell'alimentazione rispetto al 430 e al 440. Quindi cosa succede? Che essendo freddo il modulatore, quindi non avendo subito il consenso, quando tu parli, lui dà sempre quella potenza. Quando inizia a scaldare, la potenza sale in automatico, sale e poi ti sale all'impicco. Quindi tu devi far sì che adesso è regolato a caldo, quando è freddo, anziché per dire darti 20 watt te ne da 10, però basta che tu ci moduli 5-10 minuti, lui si stabilizza a 20 watt di portante muta e ti lavora in maniera sempre positiva, perché se tu lo lasci a caldo sempre a manetta e non te lo abbassi man mano che ci parli e ti vai in protezione, rischi anche di bruciare il finale così, Il morale, cosa mi stai dicendo? Adesso è a caldo o a freddo? Dovrebbe essere a caldo l'apparato. Adesso abbiamo fatto la regolazione a caldo, certo, ma con il 140 la regolazione va fatta sempre a caldo, capito? E quando tu mi hai detto che c'avevi l'amperometro che stava impazzendo e che i picchi di modulazione andavano e tornavano, e la radio è già quasi in protezione lì. Allora ti devi abbassare subito lo slider del power, perché la regolazione gliela fai a caldo, in modo che il finale, quando tu pigi la portante, il consenso sia quella potenza, e quella deve rimanere. Invece se tu non te la regoli, lui ha già un consenso eccessivo, perché il finale è già caldo e quindi rischi di fare danno. scendo, guardo sempre lo smitter, e quindi dovrebbero essere, perché adesso è sceso leggermente, dovrebbe essere 10, no, si è rimasto sempre sul 5, devo dire la verità, 10 quindi. Allora, tu c'hai il power, dove c'è scritto power? Attenzione, in quello strumento lì, quello smitter strumento che c'è, quello con la linea rossa che arriva sino a 150 watt, non è un strumentino da niente, è perfettissimo. Quindi se tu a portante muta hai, sei tra il 5, io adesso sono sempre occhiato, ma me li metto, quindi vuol essere preciso quando lo parlo. Allora se tu, perché guarda io sto usando la stessa radio tua, allora, se tu a portante muta, nella scala del power, sotto c'hai il power, vero? 10, 50, 100, 150 watt, che è watt alla fine. Allora, la portante muta, se tu ce l'hai sul 10, ed è portante muta, sono 10 watt. Quando tu parli, se la portante va avanti sino alla prima tacca bianca, alla seconda tacca bianca, ok? Alla seconda tacca bianca, sono 10, 20, 30, 40, vedi dove c'è il 5 ce n'è un'altra, 50, quella in verticale a 45 gradi. Ok, se tu stai modulando, dalla portante muta, segui le lineette bianche, ti dice esattamente con quanti watt stai modulando tu. È preciso quel wattmetro, è troppo sovranti di io, è preciso. Allora, guarda, portante muta. Ecco, sta facendo dei picchi, la portante muta, a un certo punto picca, va su, dai 10 arriva ai 20, ai 30 watt. E quindi c'hai 10 watt di portante muta, 30 watt di picco, credo che siano sufficienti 30 watt modulati, più o meno siamo come questo, io ho l'articolo 250 che è il suo correttore automatico, dove c'è rosmetro, wattmetro, correttore e commutatore antenna, è la scala di 20, vediamo. La scala di 20 a portante muta me lo tiene, mentre se parlo va fuori scala, lo devo andare in scala 200, in scala 200, portante muta 20 watt, modulati 50 watt, questo è un pochino più spinto di quello, hai capito il concetto? Aspetta, forse no, io adesso sono a portante muta, a un certo punto non si capisce perché, pur stando zitto, lo smitter picca di colpo e se ne va sui 30 watt, e dopodiché ritorna subito sui 10, senza che io stia parlando. Ma è logico che quando parlo adesso, ad esempio, in modulazione sta andando dai 10, fermo, in non modulazione, diciamo in portante muta, arriva a 40-50. Però ogni tanto, come tengo la portante schiacciata, ripicca tu e va sui 30. Perché ti sta portando appresso il rumore della ventola, il microfono è talmente sensibile che ti muove l'ago. Se tu vuoi vedere una cosa ben fatta, chiudi il microfono, oppure quando fai le prove per sapere esattamente il watt, stacchi il microfono, dove c'è scritto mic, e schiacci il send. Risende la portante muta se che non ti dà possibilità di sentire niente, e lì ti puoi fare tutte le regolazioni che vuoi, tutte, capito? Io le regolazioni della portante le faccio sempre a portante muta, intendo senza microfono, con la portante send della radio, capito? Tutte le regole della radio con la portante send, dove c'è scritto send, staccando il mic del microfono, e vedrai che non ti si muove l'ago, è impossibile che ti si muova, prova. Radio, dimmi. Ma una curiosità. supero di potenza con un alimentatore da 30 ampere, essendo un alimentatore switching, è meglio che si tenga leggermente più basso, perché quella radio pompa parecchio di watt e anche di radio abbastanza. Allora, sono salito di un canale sopra un attimino e ho provato, appunto, come mi hai detto tu, rimane fisso sui, avevo regolato sui 20 watt e diciamo che sta tutto fermo, cioè tutti gli aghi rimangono assolutamente immobili. La matematica non è un'opinione, è così e basta. Questo è proprio, noi l'abbiamo fatti tanti anni fa, soprattutto con questa radio io conosco perfettamente vita e miracoli. Tu quando devi fare qualsiasi prova per la regolazione giusta non usate mai il microfono inserito, si stacca il microfono, così col 440, attenzione, che il 440 c'è scritto send, che è la sua portante automatica per le automisurazioni, si stacca il coso lì, il jack del microfono, la radio è muta e quindi tu puoi fare qualsiasi regolazione, non ci sono oscillatori, niente, non oscilla assolutamente niente, è perfetto. Adesso tu immagini che sei 9 più 30 con picchi positivi a 9 più 35, poc'anzi quando io mi ho messo l'occhiali ti ho seguito al momento in cui mi hai detto che la radio stava iniziando a partire ed eri già in picchi negativi, quindi eri già quasi al limite della protezione. Quindi ricordati, quella radio va regolata così perché l'hai regolata a caldo, 20 watt a caldo, quando tu l'accenderai a freddo non saranno più 20 watt, saranno 10, ma non ti consiglio di toccarla, ci moduli con 10 watt tranquillo e sereno, dopo 10 minuti lì è stabile a 20 watt e non lo toccherai mai più, a meno che se non ti rompono le palle che devi superare i 50 watt di modulazione. Allora, oramai sai il riferimento, ti guardi il riferimento, ti sollevi la potenza come quando ti piace e te la riabbassi come quando ti piace, però sempre a caldo, mai a freddo. Ma io credo che comunque un paio di giorni fa mi sia entrato in protezione. Quali sono i sintomi? I sintomi sono che ti va in reset, si blocca la radio, ti rimane la portata inserita e non va né avanti né indietro. Negativo, questo invece mi era sembrato che non ricevesse più né in FM né in AM, staccando e attaccando l'antenna, cioè l'antenna è come se fosse staccata, perché anche se la riattaccavi non ti dava più la ricezione di prima, era una cosa molto strana. Può darsi che sia andata in protezione direttamente sul microprocessore di trasmissione, può darsi anche. A me me l'ha fatto una volta e non me l'ha fatto più perché ho capito appunto qual era il problema del 140 e anche quello del 440 è la stessa cosa, il microprocessore sono uguali per tutte e tre le radio, tranne che quella del 430 che è due conversioni e non tre conversioni. Però il 440, 70 e 140 sono tre conversioni che hanno il microprocessore del modulatore uguale, preciso, identico. E quindi andando in protezione quello si blocca il PTT, rimane inserito il consenso del modulatore, quindi l'LC, e rimane muta la radio. Allora bisogna spegnere tutto e riaccendere. Esatto, facendo sì che lì lavori alla potenza che praticamente l'LC ti ha richiesto, perché se tu eri a 100 watt di portante, andavi a modulare a 150 per dire, lì ti sta già dicendo, anche se non parla, ti sta già dicendo che la radio è in supero, quindi praticamente ha troppa potenza d'ingresso, allora tu devi fare la regolazione che hai fatto adesso e te la tieni a caldo sui 20-30 watt di modulazione. E quindi sei a posto, anche 40 watt, ma non mai farle superare la linea rossa della LC, quindi andando a battere sopra la linea dei 100, mai farla superare quella deve superare quando lavora in banda laterale. Allora se lavora in banda laterale il microprocessore è accoppiato e lì resiste quanto vuole. E la LC va staccato? Scusami, no, il processore. Professore, se ritieni di tenerlo inserito, lascialo inserito. Adesso ce l'hai inserito o disinserito? Adesso è inserito, la differenza è questa. Questo è disinserito. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Così è inserito. Guarda, io penso che tu così nessuno mai ti possa dire stai andando male, perché la radio è perfettissima. Adesso io chiamerò anche Sandro in causa, scusa Sandro, così ti dirà lui come arrivi. Per me è meglio di così, non si può uscire. La radio è perfetta, bella, forte, che indiana, la grande, solamente picchi positivi lo smitter sì, perché secondo me si sta ancora scaldando la cosa, quindi fra un po' secondo me dovrei ancora correggerlo e abbassare leggermente. Vabbè, puoi sempre correggerlo, dai 20 watt che gli hai dato ne puoi togliere 5, ne puoi dare 15. Io ti ripeto, a portante multa ho sempre lavorato intorno ai 10-15 watt. Allora questo tieni conto che, ecco qua, lo faccio vedere, anzi non lo puoi vedere. Allora, il mio a portante multa è uguale al tuo, sta andando con 15 watt e picchia sulla T250 che è sempre la chemo dello strumento esterno, lavora sui 45 watt. Capito, dai, perché guarda, adesso la portante muta. Immagina che è già arrivata a 30, quindi non era ancora caldo, adesso allora la abbasso leggermente, ancora di più. Ecco, adesso è a 10. Adesso è a 10 e come hai detto tu si è rialzato tutto a livello di luci, a livello di cose, è perfetto. E l'amperometro non ha più picchi, nessun tipo di picco, né positivo né negativo, e non so realmente come sta uscendo. Solamente lo smitter dell'apparato tende ad andare ad avere dei picchi di modulazione che arrivano quasi a 50. Così deve andare Antonio, così va il mio, così deve andare il tuo, quella è la sua, quindi uguale al mio, 10 watt di portante muta, 50 quasi modulati, ottimo, hai una radio fenomenale, quella è la posizione di quella radio al momento in cui lui già è caldo, a freddo non devi avere problemi, lo lasci 5-10 minuti acceso, lui si stabilizza e poi ci puoi parlare tranquillamente sopra, ti consiglio di non accendere il pallaccio perché non è un baracchino, devi aspettare qualche minuto in modo che i contatti vadano a dare i consensi a tutti i microprocessori, che ne ha 50.000 di microprocessori di consenso con la radio. Questo te lo dico perché li ho già visti. Sandro, ci sei ancora? Senti Antonio, ha migliorato? Sandro? Prima? Io già sono qua, già, vi stavo seguendo. Ok. Quanto ho capito, diciamo attorno, non sto usando l'MC60 e quindi logicamente non può avere le prestazioni, diciamo, dovute di quella radio. No, ce li ha. Ok, io adesso ho sentito Antonio modulare. Sento proprio un Luca quando ho l'MC60 e attualmente non ho l'MC60, però in proporzione, io dico la pura verità, come sento un altro Luca alla schiccia. Io ti devo rispondere, poi qualcuno che ascolta dice ecco c'è sempre il top, Luca c'ha il mio 140. tecnico, io ho detto nel modo più assoluto no, però non sono un ignorante, se lei mi manda uno schema dove io posso capire e vedere, cerco di fare il mio meglio. Mi ha detto guarda, le mando uno schema dove c'è una modifica da fare. Io ho ricevuto lo schema via posta e sono andato a Chiaramonti a Carlo Carboni, ok? Che c'è H23 di Chiaramonti. Ci abbiamo visto tutto lo schema assieme e abbiamo fatto la prima modifica sulla mia radio, sulla mia, che è questa che sto usando adesso perché non l'ho mai data. Da quel momento lì tutti quelli che hanno avuto il 140, e te lo posso garantire perché forse tu lo sai quanto me, li hanno portati tutti sotto il mio indirizzo, sotto il mio indirizzo, tutti a Carlo CH23, dove si è fatto d'oro, perché si faceva fare la modifica a 100.000 lire all'ora e adesso se la vuoi se la fa ancora pagare a 150 euro, capito? Però questo non avviene più perché io me li so fare e io li faccio agli amici, tutto qua Sandro, capito? Quindi tutte quelle modifiche che tu senti delle radio escono bene, si chiamano 140, 680, 440 e 430, le ha fatti zio Claudio, non sono mica arrivati così. Morale, come mi stai sentendo Alessio? Sta? Cioè sul discorso che tu hai fatto non ce la piega, questo lo sappiamo benissimo, soltanto che io sto facendo adesso le proporzioni e logicamente come ha sentito Luca adesso niente di strano che l'apparato diciamo che sta usando Antonio abbia bisogno magari di qualche accorgimento. Allora, innanzitutto non sta usando l'MG60, che l'MG60 come sappiamo è fondamentale diciamo per questi apparati qua. Niente di strano che abbia bisogno magari di qualche allineamento, di qualche accorgimento, tutto lì. Antonio, io non ti sento, sei un Santiago di 8 a picchi di 9, la radio però non è 5, non è chiara, non è però limpida. Cioè per limpida intendi che è un po' impastata? No. Poco potente? Non lo so, se fate rispondere a lui, per me non ha difetti, l'unico difetto che ha è che ti ha preso la ventolina, e questo non vuol dire che la radio non è forte, Sandro. E un'altra cosa aggiungo, che i microfoni sono uguali, cioè non sono uguali, sono sempre a ZG ma non sono uguali. Quello che c'ha Luca, ti ripeto, ribadisco, ha completamente tutto l'LC aperto e lo stadio finale ha MOSFET, ok? Le mie radio, quelle fatte da me, compresa quella che hai tu, ok? Quella c'ha lo stadio finale ha MOSFET, non ha lo stadio finale originale da 50 watt più 50, quello c'ha lo stadio finale da 100 più 100. Quindi i finali che lavorano in coppia senza il prefinale che rimane originale perché l'eccitazione è uguale, il finale anziché da essere 25 watt a coppia è da 50 watt a coppia, così la radio di Luca, così questo 140 che sto usando io, così il C80 di Antonello Alessio, così quella di Pinangelo, così tante altre, mentre quella di sua non ha lo stadio finale a MOSFET. Allora cosa succede? Che più lui sale la potenza, ci stiamo già capendo, lo stadio finale non essendo a MOSFET e quindi non reagendo, non dandogli il consenso all'altro finale in coppia di poter lavorare a sé stato, lavora distorto. Lavorando distorto lui non può mai avere la modulazione che c'ha Luca. Ho preso l'idea, Sandro? Ho capito, quindi diciamo ci sono dei componenti degli accorgimenti completamente diciamo diversi da un apparato all'altro, ho capito. Adesso per dire, io qua per dire lo sto usando sempre diciamo a 30 watt con picchi e figurati che lavano dello smetto che in modulazione mi sarà oltre i 100, Esatto, quello è un'altra bestia. Se tu quella la provi in base laterali in HF, non in AM, cioè in frequenze 27, ma se tu vai in 40, in 80 metri, in 20 metri soprattutto tu a me mi dici, Claudio, questa radio è pazza, io con quella radio ha un picco massimo in SSB di 200 watt, perché ha i finali a MOSFET, ok, ti faccio il paragone, tu compri 230 giri da 100 watt, un 747 che è 100 watt lo stesso, l'altro così, un B150 e un 747 che sono uguali, diciamo, hanno lo stesso finale. Attento che il 747 è un lineamento da macchina a MOSFET, con finale a MOSFET. Tu le dai 5 watt e la modulazione non cambia, nel modo più assoluto, rimane bella, pulita e chiara. Usi quello della ZG con 5 watt di dirottaggio, la modulazione satura. Qualcuno parla di disaccordo, va bene, chiamiamolo disaccordo, ma è eccesso, capito? Eccesso di modulazione, perché il finale, essendo normale, lavorando in coppia, non ti dà il consenso all'altro di poter far sì che quel microprocessore che hai per il modulatore non lavori come deve lavorare. Sì, vabbè, lo sappiamo benissimo, perché lì se vuoi aumentare qualcosa devi avere l'abbinamento giusto, non è che stai abbinando un qualcosa, diciamo, un baracchino, quello l'abbinamento deve essere il suo, tutto lì. Va bene, grazie molto. Guarda Sandro, appena facciamo un po' di soldi, perché non ho tutta questa possibilità di acquistare cose che sono abbastanza costose, sarà la prima cosa che farò. Hai di nuovo toccato il Mickey. Tu ne sei troppo. A te bisogna farti dispetti. No, io ho l'orecchio purtroppo, non c'ho il naso, mi hai già visto, ma c'ho un bel di orecchie, e quando io sento la modulazione regolata bene e poi sento di nuovo le tocchi, sai, Sandro, sono dovuto andare a mettere l'attacco nel Mickey Game, perché lui mi tira fuori sempre la scusa, sai, spolverando mia moglie spolverando, ma tu lo spolvereggi che tu 440, non l'hai già visto. Figurati che questa parola, io la chiamo la parola, ancora non c'è, come ti posso dire, un coso di polvere sopra, se gliela vado a cercare non ce l'ha. Ma vedi, io siccome non ci tenevo le mie cose, non ci tengo attualmente, io quando ho le cose sono tutte graffiate e messe male, mi fanno veramente schifo, veramente, a volte mi pento di fare queste cose così, ma a me lo dì, non ti conosco, non mi conosci, ma io non vedo le mie radio, dico, ma tutte nuove, sono, guarda, questa c'ha 20 anni, questa ne ha 21, questa ne ha 18, questa ne ha 17, l'unica nuova è questa nera, che è nera, non si vede polvere, però non ci sono graffiti, le altre sono tutte vecchie, c'è complimenti, purtroppo si lavora così. Le cose belle vanno apprezzate, vanno tenute, vanno soprattutto anche composte in una certa maniera, no? Non costa niente, non appoggiarle niente sopra, se si appoggia qualcosa sopra ci sono quei filtrini in coso, dove, insomma, anch'io ce li ho dei baracchini, però sono tutti quei filtrini, nessun graffio, nessuna cosa. Va bene a tu, comunque per me vai bene, l'unica cosa che ti chiedo è di non sollevare quel microfono, perché altrimenti, ha ragione Sandro, la modulazione va a comprimere e ti porta via quella tonalità medio-alta che è molto importante con quella radio, e poi appena tu hai le tue possibilità, io non metto in mezzo mai lingua per nessuno, ti prendi un bel MC60 dove non hai da fare nessuna regolazione, inserisci il jack e il resto lo fa tutto la radio. Però già dai, adesso vedo cosa posso riuscire a conservare e meritarmi giustamente il giusto accoppiamento. Per me, nonostante sia un microfono ZG, ripeto, un complimento vero che ti faccio, la modulazione mi piace, l'accombattimento molto, molto alta, quella me, forse che siamo vicini, non lo so, sono più distante, ma con segnale ti ritrovi, sì, 9+40, la modulazione sta comprimendo molto bene qua, evidentemente a portatore c'è un pochino più sparsa come radio, nel senso che è molto più larga, qua invece rimane molto più stretta, quindi hai le tonalità giuste per poter dire che benissimo di chi sto parlando. Niente, mi ha detto soltanto, guarda, perché ogni tanto l'ossido qua non arriva bene. Dice, ma che sta parlando? Io non te lo voglio dire perché, ma visto che ci conosco di qui, come sono fatto, mi fa, dice, una parte coperta, fa un piccolo ponticino lì, addirittura mi ha mandato lo schema via email da fare questo ponticello. E ti dico di più, stamattina ho fatto la prova con Di Paolo, ho fatto un collegamento a Lucca con Di Paolo 9+5. Caso di utilizzarla oppure, cioè, otterrò migliori risultati o non è il caso? MBP9, che l'MBP9 di Zeucia, diciamo, ecco, e così via, avevo eliminato questo cerchietto grigio che va salvato, e migliora, ti posso garantire che migliora. Se non sbaglio, Luca, sull'MB4 mi sembra che abbia fatto quel lavoro lì stesso. Dici, ho fatto io quello. Cioè, ha tolto il cerchietto? Sì, positivo. Poi il cerchietto non è che quella stridulezza, qualcosa ti chiarifica più la modulazione. Allora comunque in questa capsula che sono riuscito a trovare non la saldo, cioè lascio la capsula originale. Sì, sì, lasciami la sua capsula originale, quella piccola, quella in dotazione proprio che c'è la MBP5. Devi eliminare soltanto quel cerchietto diciamo che è saldato sulla capsula, quello eliminalo. Capo, capito, dai. L'unica cosa, adesso non ricordo bene come è fatto dentro, però dovrebbe avere problemi a rimanere al centro, perché se non sbaglio quella lì era una cosa di sostegno, a meno che non gliela lasci e non diciamo gli tolgo la saldatura che lo mette a massa. No, altro, elimina, devi disaldarlo, eliminarlo completamente. Per tenerti la capo sulla ferma, che logicamente non ti terrà la capo sulla ferma senza quello lì, ci metti del cotone, capito? Del cotone, oppure se c'hai della gomma piuma o qualcosa, addirittura se hai un qualcosa in gomma, un polistirolo, ti fai la sagoma del microfono di polistirolo, li fai un buchino al centro e li metti la capo sulla, e tu dopo mi dirai che cambia. Lo fa. Ascolta, questi toni cosa faccio? Le lascio così o tiro un po' di più? No, io voglio ancora provare, anziché 6 portali a 5 e abbassi il volume del microfono anziché 8 a 7. Allora guarda, ti faccio la prova. Adesso abbasso il volume del microfono a 7, dopodiché da 6 qua sono in posizione 5, 1, 2, 3, prova, sono in posizione 4, 1, 2, 3, prova sempre con i tuni, in posizione 3, 1, 2, 3, prova con i tuni, in posizione 2, 1, 2, 3, prova, in posizione 1, 1, 2, 3, prova, e adesso sono arrivato a 0 con i tuni. No, riporta i tuni a 5 e mette il microfono a 6, il volume del microfono a 6. Ci sono a 5 e il volume del microfono, eccolo qua, è a 6. Siamo 5 con i toni e 6 con il mic gain. No, i 5 lascia i toni a 5 e porta il microfono a 7. Adesso siamo a 7 col volume, cioè col mic gain. Allora, mic gain per me va bene a 7, tonalità va bene a 5, perché ti porti via quei medio alti troppo acuti, hai più medio bassi. Per me si assomiglia molto di più così alle mie 60. Tu come lo senti, Sandro? Ok, allora aspetta un attimino che ho cambiato, che ho cambiato un po' più chiara quella, la pezzolina. Allora vabbè, a parte che sì, è vero, io dico si uccide. Un'altra percezione, qua lo senti, tra l'altro qua ti sento leggermente un po' diverso, comunque, sì, qualcosina ha schiarificato, però io sono sicuro che facendolo quell'accorgimento, eliminandoli quella piastrina, cambia. Capo, ma lo faccio, mi riprometto di farlo anche stasera stesso, così vediamo un attimino la differenza. Ma ascolta, invece il mic gain dell'apparato dove va a posto? Io lo sto mettendo adesso, in questo momento è sulla I, in corrispondenza della I, del mic. Ok, come ce l'ho io? Anch'io ce l'ho sotto dove c'è scritto mic, è posizionato praticamente centrale, sotto la I. Per me va bene così, Anto. Anche le tonalità, tienili a 5 e il microfono a 7, è molto presente come radio, è molto presente. Tieni conto che Sandro è lontano, noi siamo vicini, però è abbastanza da combattimento la modulazione, è abbastanza da combattimento. Quell'accorgimento del tempo Sandro è fattibile, quella vettina che c'è, che mantiene quella vettina, quel pezzo di ferro che c'è che mantiene la capsula, quindi le fai una serie diversa in modo che la capsula abbia una dinamica completamente più visiva, nel senso che è come le casse della macchina quando sono all'interno, e ha una modulazione completamente diversa. Sicuramente hai la tonalità medio bassa molto più acuta. Dai, lo faccio adesso appena posso, lo risaldo, anche perché ha un po' di problemi nel tarre questa capsula dall'interno, cioè il pezzo di plastica, perché ha le alette autobloccanti, comunque non c'è problema. Pochi minuti e il problema sarà risolto. Comunque quella di Luca è possibile che sia anche più squillante, a parte tutti gli accorgimenti che gli sono stati fatti, perché comunque funziona con un volt in più, Ma vabbè, ma quello di Luca, a prescindere dal microfono, che è un abbinamento che avete fatto voi, o per me, non avrei mai fatto un abbinamento MB più 4 Kenwood, io ho sempre fatto I come Kenwood, I Azure Kenwood, questi abbinamenti così, ma a livello professionale, microfoni neanche per me più 3 ho mai inserito nei Kenwood, sinceramente, ma non ci ho mai provato, non è che, però mi sono reso conto che sono degli abbinamenti scoperti da voi che vanno benissimo, vanno più che bene, tenendo conto che ha una capsula dinamica e che quindi è un abbinamento strepitoso, con il risultato che le capsule delle BC60, dell'SM20 della Icon, del DM100 della Iaesu sono capsule ceramiche ricoperte in vetro, quindi hanno totalmente una sensibilità e una chiarezza di modulazione completamente diversa da quella che possa essere un microfono con la 27. Ecco, però gli abbinamenti ci sono belli, a me piacciono, perciò ben vengano queste proprie tecniche di trasmissione così chiamate. Se togli ancora, fai ancora questo piccolo ritocco a quel microfono tenendo i toni a 5 e il volume a 7, per me stai andando più che bene con un abbinamento così. Però io voglio portare all'attenzione di una cosa, che se andiamo a livello di qualità-prezzo, per assurdo, dico una boiata, questo qua sicuramente è migliore dell'MC60, nel senso che ho detto, so di aver detto una boiata, però dico, questo qua costa 45 euro, l'MC60 ne costa 180, mi dovrebbe dare 4 volte la prestazione che da questo. Non sono sicuro se è le prestazioni che hai in questo momento, però ti rispondo in merito, perché l'M60 è il suo microfono in dotazione, quindi è chiaro che stai parlando di un microfono Kenwood professionale abbinato a qualsiasi radio Kenwood e non solo, perché sono gli adattatori che vengono, quindi da Kenwood a Icon, da Icon a Kenwood e così via, Iaesu eccetera, io ce li ho tutti, e che quindi hai una certezza matematica che il microfono è suo, che il funzionamento è quello, che la tonalità è quella. A quello che ti ho detto prima rispondo, ben vengano queste proprie tecniche di trasmissione come hai fatto per Luca, quindi un abbinamento ZG con un Kenwood, perché sono degli esperimenti veramente interessanti. Io ti ripeto, non l'ho mai fatto, mi proporrò a farlo anch'io, giusto per provare, io ce l'ho fatto. Adesso mi preparerò un adattatore, non uso il ZG, uso il Turner, mi preparerò un adattatore da 4 a 8, farò la prova, ma per attenzione, vedere qual è la mia timbrica con un Turner P3 usando un Kenwood insomma di 140, 180, 440, eccetera, 430, di quelli che c'ho io. È giusto per vedere, capisci, perché sono talmente curioso di sentirmi e capire se effettivamente questo vostro esperimento fosse interessante anche per altre persone, ecco, tutto quanto. No, assolutamente, attenzione, non volevo insultare minimamente o comunque non apprezzare quelle che sono le qualità di un MC60, assolutamente, cioè capisco che sia l'abbinata perfetta, però capisco che a livello qualità-prezzo, diciamo, questo qua è il giusto compromesso se uno vuole comunque uscire benino. Stiamo parlando di un quarto della spesa, che secondo me è determinante. Poi chiaramente quando sei un professionista della trasmissione non ti puoi mettere nella condizione di tentare, di andare a tentativi, capisco che devi prendere il top della gamma, che in questo caso è l'MC60. Grazie. Vai, sir. Allora, se te ti interessa, tuttora, c'è un MC60 a 90 euro, 90 euro con 12 mesi di garanzia. Certo che mi interessa, chi ce l'ha? Allora, a te, guarda, a te se ti interessa, puoi anche vederlo adesso, vai sul sito della Magic Piccone. Lì c'è già in esposizione nella bacheca degli usati e lo sta dando via 90 euro. www.magicpiccone.com. Esatto, devi digitare soltanto Magic Piccone, P-H-O-N-E. Me lo sto segnando perché non ho qua il computer, non tengo il computer nella stessa stanza per una questione di disturbi. Sì, lo guardo fra 10 minuti esatti. Ma c'è, quindi sugli usati? Sulla bacheca, tu vai una volta che ti viene fuori, diciamo, la pagina principale, guarda sulla bacheca dell'usato e c'è un MC60 90 euro con 12 mesi di garanzia. E un usato per 12 mesi di garanzia non è poco, eh? Assolutamente no. Allora io l'avevo già apprezzato l'MC60, le potenzialità dell'MC60 col 140 di Daniele, che credo che tra l'altro sia una tua creatura, che è quella, no? Quello è mio lo stesso, che quello di Daniele, anche il microfono è mio. E capo, quella era una bomba. Quello davvero, l'avevo apprezzato, io ho acquistato il 140 dopo averlo visto da lui. Io ne ho riempito quasi tutta la provincia. Io sono stato a Sassari assieme a Marco 131 a portare il primo Kenwood. Abbiamo comprato tutte e due assieme il 430, che io ho ancora. Ancora non si toccano loro mai e poi mai, nel modo più assoluto. Capito? Che prima del 440. Quando è uscito il 140 ho fatto la pazzia di vendere il 430. S430 e comprare il 140, ma mi era venuto la disperazione, mi stavo sentendo male, perché non andava come volevo io, e poi abbiamo trovato questa modifica con Carlo e non ho più lasciato il 140, ne ho comprato un bizzeffa, compravo e vendevo, mi sono rifatto il 430 immediatamente, mi sono rifatto tutta la linea completa, io ho tutta la linea completa che potevo, perché il 430 non ha correttore interno come il 440. Come è uscito la T250, che è il suo correttore di linea, subito l'ho collegato al 140, subito è uscita la colonnina, mi sono preso la colonnina dell'MC60, mi ha fatto tutta la linea e ancora oggi ho tutta la linea. E l'alimentatore, il primo alimentatore che è uscito del 430, si chiamava PS430, però era 25 watt, 25 ampere. Quando è uscito il PS50 assieme al 440, mi sono preso subito il PS50, venduto il 430 e preso quello, capito? Sempre in fase di aggiornamento. E tuttora, se non li ho visti alle televisioni, ce li ho sempre, non le darò mai, mai e poi mai. Devo mandare in continente a fare un allineamento, un accorgimento, non so cosa sia, se qualche condensatore va cazzata sicuramente al 440, perché se lo tengo molto fermo si spegne il display e quindi infatti non so, adesso decideremo dopo fare le vostre e mandarlo su da Bianconi e basta. L'unico difetto che ho in questa radio è questa al 440 che si accendo. Ecco qua, è accesa perfettamente. Ok, dopo che rimane un pochino accesa, un paio d'ore accesa, in display sparisce la scritta e appaiono tutti i puntini. Devo vedere che cos'è, non l'ho mai toccata, la mando al centro assistenza, non la faccio controllare e basta. Per il resto io ce le ho tutte le radio della Chevrolet e non si toccano, sottolineo toccano. Scusate un attimino, Fatic che mi era arrivato, che non è da base, ma è un mic normale, un mic amplificato. Adesso ci metto dentro la batteria e mi dite come sto uscendo. Ascolta Sandro, ma ti ricordi che allora tu hai preso il 908, io ho preso invece il 508. È fattibile anche che lui col 508 senza equalizzazione, perché è una modulazione abbastanza corposa, vada bene anche nuovo a 60 euro, mi pare 59 euro io l'ho pagato, il modello di quello che hai tu senza equalizzazione. Non ti sembra? Visto che c'ha gli attacchi ICO, Mechevo, degli AESO, anche quello, con gli spettroni suoi già pronti. Ho capito. Penso che sia fattibile perché tu adesso dall'altro giorno quando mi hai detto escludi l'equalizzatore, io adesso sto andando soltanto col compressore dal mic, dal 908. L'equalizzatore non lo sto utilizzando, quindi vedi te come sta uscendo. Alla grande senza nessun problema. Alla grande veramente. Ottimo, te l'ho detto, hai fatto degli accorgimenti molto interessanti su quella radio e devo dire che devi crescere dirtelo, come te l'ho già detto, ma non ne posso raccontare, che si avvicina molto alla modulazione Kenwood e che comprime la tua modulazione in una maniera tale da farla diventare molto, molto chiara. Niente di strano che sia anche dovuto a questo piccolo ponticello che mi ha fatto fare sul modulatore. Senz'altro diciamo incide, però se tu mi stai dicendo che quel mic diciamo l'equalizzatore, io penso diciamo che si addice benissimo, capito? Poi logicamente se capita magari qualche momento di vederci ti dirò un attimino che rimanga tra noi logicamente, perché tu sai benissimo che se io magari ti dico questo piccolo accorgimento sul modulatore. Non ci sono problemi, Sandro, non ci sono problemi. Io metto sempre in casa ciò che gli altri con esperienza acquisita mi dicono. Come io metto a disposizione la mia, non ci sono problemi. Se magari è una cosa che io non ho mai fatto, la faccio per fare delle prove, capito? Non sul 440, sul 430, ma la posso sperimentare anche sul 140, sul 680, io anche il 680 è uguale al 140 con la scheda dei 6 metri. Si può fare benissimo, non ci sono problemi. L'unica cosa che vorrei fare è in questi giorni mi preparerò un adattatore e me lo faccio mandare già pronto da 4-8 e voglio provare il 3-3 col 140 a vedere come si comporta, capite? Come va, ecco, tutto lì, ma per una mia curiosità personale, niente di particolare. Ok, telefono. Sandro, ci sei? Scusa che mi ha chiamato un collega. Bisese? Ehi, sono qua. Cappa. Stavo pensando al limite farle prendere quello, l'M508, io ce l'ho sul, no, adesso non ce l'ho perché l'ho staccato. Sto usando l'SM20 con l'ICOM, però io l'ho provato sia sull'ICOM che sul Kenwood, va benissimo. E va benissimo, devo avere da trio, ma mi serve. Mentre abbinamento IAESU, completamente zero. In banda laterale, l'M100 è quello che prevale sul 950. Non c'è niente da fare. Gli altri sono tutte modulazioni molto molto spinte, però che in banda laterale non servono. Serve quella compressione giusta per far sì che il modulatore lavori in una certa maniera, capito? Sono sicuro che con benissimo che l'hai provato anche tu, e spinge, il 908 spinge, soltanto che magari ci vorrà qualche accorgimento, non lo so, perché io adesso lì... Io adesso ho eliminato il processore e andando a eliminare il processore succede che elimina anche quel fotticello. E quando inserisci il processore la colorazione diventa normale, lo devi tenere per forza col processore inserito. No, io sto parlando non del 908, il 508, l'altro, ti ricordi? Ce l'ho presente, ma si rassomiglia al 908. Tu guarda che me li hai portati tutti e due e due, il 908 e il 508, me li hai portati tutti e due e due. Te l'ho portato io, ma no, io ti ho portato solo la blu de Lauronis 908. Sì, me l'aveva comprato su Tecnico Comunicazione Mauro, sì, 50 euro, 49 euro, 49 euro più 10 di spedizione, 59 euro, ed è praticamente uguale a quello, al 908, solo che non ha l'equalizzatore, capito? Due cavetti di connessione, ICOM Kenwood, e anche se lo vuoi ti danno quello della IESO con 10 euro in più. Quindi per 69 euro praticamente c'hai un microfono che puoi usare su tre radio, anche perché hai il cambio vie praticamente, quindi unico microfono, due uscite, e puoi usare sia ICOM che Kenwood, come fai tu, no? Lì ci attacchi l'altro connettore, sposti uno e due e usi un microfono con due radio. Esatto. Soltanto che qua adesso su 757 va benissimo, o si addice, adesso per dire su 440 sposto oggetti dietro la base del mic, su 440 niente da fare, non è come lo rifiutasse, evidentemente magari c'è qualche altro accorgimento, non lo so, comunque non sono stato lì a insistere. Sono convinto che non lo accetta perché c'è il relè di comunicazione elettronico 440, mentre il 757 ce l'ha come il 140. Se tu guardi con l'MC60 si sente il tic tic, quello è un relè di comunicazione che esce troppo tante, capito? Quindi se tu non le metti, l'MC60 non esce troppo tante e non te lo accetta. Ecco perché, Sandro, c'è solo quell'accorgimento da fare, ma non lo fare. Continuano a usare 60 e 908 usano con 757 che va alla grande, va benissimo. Infatti non provo neanche perché lì c'è la limitazione, sbagli e così via. No, adesso come adesso prossima settimana come arrivo a Turner, proviamo a Turner qui su K e vediamo un po' che cosa, come si comporta. Chi è? No, non stai uscendo tu. No, non stai uscendo del radio, è solo portante. Cosa hai toccato? Se no prova a spingere un pochino, muovilo quello slider, fai qualcosa che deve essere inchiodato. Negativo, sto uscendo con l'Intec adesso, stavo mettendo quella statica, ma o è la batteria scarica o ci sono, o è l'aggancio dei coso della batteria che è un attimino mangiato. Sicuramente sì, ho sentito un 33 e basta, però con la migliorazione è zero. Adesso stai andando col baracchino normale. Roger, e fra l'altro con l'antenna, con una mini Grand Play messa in terra, Se 9 più 20, non c'è problema, non so se Sandro ti ascolta. Sandro, lo senti Antonio con la mini Grand Play? Guarda, senti il servizio. Santiago di 3, una radio di 1. Ma Roger, questo qua è piccolino, piccolo piccolo. Va bene, però. È acceso il servizio. A posto? Poi già perché è un attimo. E allora, che si dice, che si dice? Abbiamo fatto il dovere, adesso facciamo il piacere, eh? Ciao Sandri, ben sentito. Ciao, ok. Buonasera, ben ascoltato anche te, vai. KK, buonasera, ben sentito. E allora, che si dice, sa, caldo? Caldo. Sta facendo caldo, tanto purtroppo è tempo suo. Dica. Che è? Sono qua. Non ci stanno problemi, sono sempre qua. Ora, sei uscito, sei rientrato, hai fatto tutto, ti sei pulito, sì? Sì, buttato via tutto anche. Bene. Allora, Drobe, facci sognare, su. Nel senso che vi faccio addormentare. E comunque questa cosa della radio è appassionante, anche perché ci mette come i ragazzini, l'ho sempre detto, che comprano la moto, dopodiché iniziano a metterci pezzi per maggiorarla, rischi di fasciarla, a volte ti escono anche le cose belle, dai, come quelle che fai tu. No, ma non è che si rompe niente, è che per poterlo fare, come ti ho spiegato, bisogna avere molta pazienza e soprattutto toccare quello che è necessario, cioè dare quella spinta proprio necessaria, perché se sbagli succede che poi in AM sei fortissimo, poi in FM e già inizi un pochino a essere meno. In banda laterale hai questa modulazione fortissima dove praticamente non si capisce più nulla. Io ho fatto in banda laterale con le mie radio, perché sono molto spinte in AM e in FM, in banda laterale con le mie radio Kenwood, non IAESO, e Kenwood, non uso il processore, vado completamente senza processore, è una spinta allucinante, capito? Fortissima. KK, ma si sente decisamente. Io ho cambiato radio, ad esempio, per l'uno per essere molto accorti, io sto andando con 430. Il segnale sarà leggermente più basso perché sto andando con 30 watt, ma da 30 a 40 non cambia. Però la modulazione vi riesce per la stessa. Il microfono qual è? Sempre lo stesso. Io ho un MC60 per ogni radio, tu. Sono malato. È un patrimonio lì, Eh, non lo so, boh, Sandro, cosa dici? Un patrimonio c'è qua. Allora ascolta, a te mi ti mando innanzitutto il portone blindato e poi devi entrare in quella stanza, un'altra stanza blindata. Non sai che volevo mettere la porta, vi ho detto l'inglese, chiudere la chiave, mi ha detto te ne butto la porta perché c'ho il computer. No, dai, siamo lì. Tanto è il mio mondo, Sandro mi conosce, è il mio mondo, io sono nato in mezzo alle radio, mi piace troppo avere di tutto e di più. E in questo momento c'è anche un po' di difficoltà perché benissimo che quel, io lo chiamo gioiello, il mio gioiello mi è rimasto sempre, diciamo, impresso, e mi dispiacerebbe, penso di no, e mi dispiacerebbe se fai la pazzia che lo dai via. Allora il giorno che non ti parlo più, non ti guardo più in faccia. Ma io ti ho detto poco fa, e spero che Vitterand durante rimanga qua, a meno che posso accoppiarlo a quello che è un FT1000, quindi il modello superiore, accoppiarlo vuol dire metterglielo a fianco, oppure un bel Mark 5, allora sarei più contento del mondo, capito? La stessa cosa ti ho detto io a te, no? Non fare mai la partita per la 27, poi ti auguro di diventare l'animatore e di non prendere un FT950, ma di prendere un 7008 o un 7009 della Icon che costa 12.000 euro. Te lo auguro con tutto il cuore, ma non, per la 27 non dare mai via quella radio, perché è il top dei top, non ce ne sono altre radio che possano garantirti l'uso e l'utilizzo del cavo del 27. Che si dica da tutte le parti, giochiamo con i baracchini, ci gioco anche io, tantissime radio belle, concrete, compatte, bellissime da vedere, ma stiamo parlando di baracchini sempre. Io reputo il mio discorso sempre da questa altezza. Quando parliamo di radio a sintonia continua di apparati. Per me qualsiasi baracchino che possiamo avere 400 canali, bande laterali, tagate, contro tagate, è sempre un baracchino per me. E basta, chiudo qua il discorso. Quella invece è una radio a tutti gli effetti, che ha ottime e ottime soddisfazioni, dove puoi girare il mondo a pochi spiccioli, capito? Dico a pochi spiccioli perché qualità prezzo a livello di baracchini, che è tipo quello che ho io, un Alan 48 che mi costò 550 euro per fare le modifiche, io penso che esca un bel 440 completo di accorratore, filtri e schiera fonem, che non ha niente da invidiare, un Alan 48 dove ci possiamo giocare tutti i giorni e fare i pazzi. Vero, pianto! Sono tutto gonfio. Non ti hanno gonfiato bene? Beh, che sei gonfio ti ho visto, che sei gonfio ti ho visto, Antonio. Se continui così ci vuole più a girarti che a saltarti a te. Ah, ma mi sono dimenticato di farti bere i piedi ieri. Ma lo sai che io ho smesso di prendere le pastiglie al cortisone perché mi stavo conoscendo i piedi anche nelle orecchie come il gatto. Le orecchie già non ti escono, non ti preoccupare. Ok, saluto a tutti nel canale. Chi c'è? Di Boni, chi c'è? Chi c'è? Oh, un attimo. Vai, c'è lì. Ok, vai. Ciao, zio Pomponio. Ho la patata sulla spalla anche a te, vai. Signori, io vi saluto. Vi saluto perché mi hanno chiamato a vedere il dato tu clavo, non ci scendi. Stanno cucinando giù alla Rinarita un vitello. Adesso provo un attimino a vedere a che punto sono, va. Vi saluto circolarmente a tutti, ci risentiamo alle prossime. Sandro, ti prometto con tutto il cuore, te lo prometto, guarda, da fratello, che ci vediamo con calma dopo tre volte. Stiamo assieme, magari andiamo anche a mangiare una pizza a fare, ma se io mi muovo da qua, domani mattina manco le canonate mi sollevano dal letto, sempre. Ho lavorato anche oggi, mi sono andato alle 6, domani mattina, stamattina mi sono andato alle 6, ieri alle 6, domani mattina sempre alle 6, sono tutta la settimana così, Sandro. Infatti ho mandato mia moglie e mia figlia al mare e io me ne sono entrato a casa, mi sono riposato, adesso sono in radio, ma se esco e si fa tardi, allora mattina non mi alzo. Quindi ti ringrazio dell'invito, ma non scendo. Ho mio fratello Vennero perché non gli ho dedicato manco un giorno dall'inizio di agosto, mentre l'anno scorso di questo periodo già il figlio. Appena è possibile stiamo una serata assieme, vai tranquillo. Un abbraccio, buona giornata, buon fine settimana e buon tutto, saluti a casa. Già non c'è problema, Claudio, già ci sarà un po' di tempo, diciamo, per poterci vedere e organizzare qualche serata. Ok, salutoni a tutti, correttivo da parte mia. Ciao Sandro, buon correttivo, alle prossime ci sentiamo. Avanti. chi c'è? Falchetto anche. C'è Falchetto che deve essere andato a portare a Tullio e poi c'è Antonio Grobbe. Antonio lì. Antonio. Per telefono, ogni tanto parte. Ma scusa, il telefono molla il microfono e prende la cornetta della goccia. Una volta già mi capitava l'esercizio di sbagliare il microfono, posso usare quello delle. Questo qui usavo quello del VHF oppure quello del di un'altra panacchina, avevo 5 di tutti quanti accesi, un casino, questo lo usare per forza uno. Io adesso ho sbagliato il microfono, ho pigiato l'altro dello 140 che però è commutata l'antenna. L'avevo lasciato acceso perché era un freddo, avevo messo tutto in terrazzino l'apparecchiatura e aveva scritto poche robe, poi aveva messo l'EPT 250 apparecchio non omologato in concessione. No, guardate in due, piano 8. Cosa hai detto? Concessione perché? Stavo dicendo che c'ho ancora conservato il verbale che avevo messo tanti anni fa, dove c'erano un sacco di apparecchi, toccai e addirittura mi avevo messo anche l'apparecchio, l'EPT 250, te lo ricordi? Quello va a volare. Come apparato non l'ho omologato in concessione, perché avevo preso un campagno di quelli piccolini giocattolo, c'era la navigazione dietro, li avevo messo agganciata, ma detto questo come mai è così omologato? E qui ho comprato omologato così e omologato me l'ho preso. Però non mi ha detto niente, se avete scritto, apparato non l'ho omologato in concessione. Sì, mi pare che non scrivessero niente allora, non mi ricordo, ma no. Non scrivevano niente. Anche a me quando mi hanno fatto, praticamente quando avevo voluto chiedere, mi hanno fatto il primo controllo con la licenza, avevo tutte le radio e hanno scritto praticamente le radio che avevo, ma non ho fatto firmare niente. Se non trovano niente in particolare mi fanno verbale di controllo e basta, che più verbale chiamiamo è un foglio, quello lo tengo ancora che sono passati a fare il controllo e basta. No, da quel dì che no. Non ci vengono qua, e vabbè, ce lo sanno loro che devono andare, solo che stanno batticando forte di nuovo in certe zone, loro me la frutta a me, ognuno si piglia le sue responsabilità, non me la frutti, non mi interessa proprio, a me, come ha detto qualcuno in radio, mi scivola proprio, voi qua sono, come ti ringrazio. Sogno, metti di Falchetto, qua sognami. Eia, qua sogno. Credo che se una persona si comporta bene non ha certamente da temere niente, anzi, avere persone corrette in frequenza fa anche piacere a chi controlla. Ah beh, su questo non ci sono dubbi, infatti, come hai sentito, a me mi scivola proprio. Non mi tocca in nessun lato della mia personalità, nel modo più assoluto, soprattutto come operatore radio. Tutto in regola, era il 1975, no, 76 veramente, che parlo la precisione del 27, anche se potevo tranquillamente dal 1993 non parlarne più, perché l'uso e l'utilizzo prevede la sintonia continua, ma perciò io mi posso quando stiamo. Ehi, ma no, ti vedo troppo assente, ti vedo troppo in giro, cerca di stare più a casa, guarda che ti leggo. E a parte che studio la notte. Oh, lo sai, è la cosa, mi avevamo preparato il concorso per avere un lavoro, studiamo solo di notte, e ripassiamo la mattina prima di andare al lavoro, è una cosa eccezionale. Durante il giorno ci avevo questo fumo in testa e non capivo un accidente. Insomma, poi ci sono meno rumori in esterno, sei più tranquillo, non hai distrazioni, perché non è che puoi prendere il telefono e telefonare a una persona, a un amico, a un'amica, quindi sei tranquillo, studi quelle tre ore che vanno, fai dalle 10 fino all'una di notte e vai alla grande. Ma no, proprio esatto, io dopo cena mi sedevo, mi ricordo, su, dall'altro, non ho piano, mi sedevo, non so, perché guardando la TV, però volume molto basso, e leggevo e rimaneva molto più impresso rispetto a quello che potevo leggere durante la giornata. E poi, siccome facevo anche i turni, allora, quando, perché sono entrato subito, mi hanno dato un impianto, facevo i turni dalle 6 alle 2, dalle 2 alle 10, per accedere alla seconda prova, che praticamente era l'orale, mi portavo il libri lì e leggevo durante il turno di lavoro. C'era un silenzio allucinante lì a Perfuras, questo impiantino disperso nelle campagne, era un sollevamento di acque bianche, quindi un potabilizzatore, proprio con un impianto di biossido molto leggero, è un sollevamento da una cinquantina di litri al secondo, adesso stiamo lavorando a 250-400 litri, quindi completamente diversi. E studiavo lì e quando rientravo a casa sapevo perfettamente quello che avevo letto durante la serata. Così infatti, guarda, meno distrazioni, più concentrazione, l'unica cosa ti cala la palpebra, arrivata a una certa ora ti si chiudono gli occhi. Ehi, più una volta mi sono svegliato col libro sopra il petto. Quello sì, quello non ci sono dubbi. E beh, motopompa, quindi stai diventando tutto gonfio, ma secondo me quelle pastiglie che stai prendendo, il cortisone, a parte che ti ho visto che ti spuntavano i peli dalla schiena, pensavo che erano i capelli, invece i peli dalla schiena come la scimmia, anche a te ti stanno uscendo i peli nelle orecchie. Le orecchie, non ti preoccupare, sono come la scimmia, capito? No, sì, aspetta. La fischia no, aspetta. Stai andando così bene che ti stavo per fare una domanda. Come mai non ti sono così bene e sei di nuovo tutta fischia? Boh, non lo so. Aspetta. Adesso sto uscendo, aspetta. Senza bruscio, so. Certo, devo tenere il dito. È strano. Adesso va bene. Aspetta un attimo, rimetto un sistema, faccio la, voglio vedere se funziona. Com'è? Mi sembra molto croccato quando parli. Ma come ti vediamo, Salerno? Ehi, Salerno sta usando. Come te c'era così poco fa, primo impatto eri favoloso, ti stavo per dire appunto, Antonello, tu che nuda e stai scendo bene, mi tac. Ah, bella mi dà problemi, fischia, capito? Adesso non sta fischiando questo momento. Com'è la modulazione? Chiara, perfetta, ce l'ho uno, sempre a uno il microfono. Non so, però a toccare. Vedi Antonio, non ti preoccupi, mi ha levato questo, la inizia già ad avere un po' di disperazione. Mamma mia, Giara. Ma è la stanchezza che accumuli durante il giorno. La stanchezza. Adesso c'è qua tutto il giardino che non si muove un albero. Un albero. Non sta entrando un filo d'aria e già mi sento appiccicoso. Adesso ho anche l'altra finestra. Perfetto birra. Immaginati com'è adesso che c'ha le farfalline attaccate. È sicuro. C'è caldo comunque, non c'è vento, nulla proprio. Comunque ho iniziato a bere troppa birra, eh. Oggi ne ho bevuto a 3 o 4 e non va bene. Da domani di nuovo dieta, corda e addominali. Se bevi birra, tanto a me no, piace più un goccio di vino buono, se è buono, con la gallosa. Ecco! Il mio Massimiliano Bordotte, rientra e dici, no, 3 miliardi di rosoli. Rosoli, mi gioco, tipo una rossa, come ascoltate qua, coordinate sentino. Guarda, io ti ho risposto sì, segnale già 8, segnale 8 qua a casa mia, non so se Antonio Grotte ti ascolta, lo senti Massimiliano Bordotte? 5-3, 5-3 però comprensibilissimo perché vabbè, non c'è nessun disturbo. Va bene, e qua siamo ultimario e mezzo a questa foschia. Ma ce n'è traffico, non si vede, bene mi ascolti lì. Cosa? Guarda, vedere, 1, 2, 3, 10, 20, 30, 50, 100. 9, 5. La radio è buona, vabbè, sto usando il capo. Ottima. E cammino con te. La fila è dietro di me, non so se è acceso, ma c'è un'antenna a 50 centimetri, non so se ti ascolti, se lo ascolti, eh. La fila, acceso hai. Oh? Oh, non lo sento. Ah, forse non è acceso. Fammi un segno di accendere, per se arriva qua a 6. Sento che c'è qualcuno che sta modulando, ma non sento minimamente cosa sta dicendo. Prendi il segnale, prendi il radio qua. Scendi tutto in occhi, mamma mia. so se mi sta ascoltando, allora ciao, buona serata con tutto. Fabio, prova ad accenderci con l'eco e con la radio un attimo, adesso se ti aumenta. Ok. Negativo. positivo, ma il problema per me è anche l'antenna, capito? È messa in terra, non ha piano di massa e non prende niente. Praticamente lo stai ascoltando con la mini Grand Play, non con l'antenna grande. Aspetta, scendo. Hai buttato un vetro, va. Già ti faccio verbale. Va Roger, con quello lì, capito? Allora, te faccio un miracolo, tu pensavo che sia un'antenna grande, se non prendi qua. Ma poi è la mini Grand Play con la caricata, quindi sarà alta 1,70 m mi l'antenna. Io me l'hai detto, 1,75 lo stilo centrale è quella. Oh, aspetta, questa è un'altra. Non sto dicendo quella che ho in un altro QTH, che c'hai i radiali a 90 gradi. Questa proprio è classica mini Grand Play con i radiali che tendono verso il basso, mentre quella che ti sto dicendo, quell'altra sarà 3 metri e qualcosa. È un aspetto interessante. Ma cos'è? Tipo ombrello, quella lì, che c'è i radiali sotto. Quattro radiali in verticale a 90 gradi, molto lunghi rispetto a quello che è la proporzione di solito delle antenne 27. E l'altezza dello stelo centrale, che è regolabile solamente da fascette, e sarà 3 metri e mezzo, dai. Va bene, va bene. Ricordati di guardare quell'antenna che mi hai detto, attacco PL, attacco 239, per l'esattezza, SO239, che è quello che hai visto, non ha più giù l'attacco. Sei della 27 con l'antenna, quanti metri è? Che magari qualche domenica facciamo qualche prova. Lo ce l'ho, guarda, che sia l'attacco del PL per forza, perché gli ho messo, come si chiama, un bussolotto, uno di quelli che serve per collegare due cavi maschi, cioè i PL maschi, capito? Quindi è quello. E va benissimo, l'attacco secondo me dovrebbe essere della 27, perché come altezza sarà 1,5 m. Niente, quando ci rivediamo la proviamo che colleghiamo l'anno 48 e facciamo una prova. Noi saliamo su a trovare Gianni di Chiaramonti con la mia e facciamo qualche prova con la bestiolina da lì su a vedere cosa dice. Ma non c'è problema, se ti dovesse servire è tua. No, facciamo una prova, a trovare chi ne mancano, chi ne mette. Per adesso per fare una prova, perché sono tanto non metto la lancola un po' in macchina. Era tantissimo tempo, siccome già tutto pronto, collegamento tutto pronto, ce l'avevo sempre. Se funge come prima, dove si è arrivato Massimiliano? Poi la mano abbiamo buttato, ma ci facciamo un po' di fila qua, per uscire dalla scopa. Un bel casino, c'è? Sì, ma fila però, una cosa impressionante. Infatti sono così, dopo che andate in Italia. Non sbagli, no, Massimiliano, io sempre quello faccio d'estate quando vado alla mia sorella Sentino, sempre quella, perché se no non devo cubire, mi incazzo, non ho venuto da là. Guarda, capì, facciamo da lì, la canaglia. E soprattutto di microfoni. Sono Massimiliano Stoppo, figurati. Io non lo immagino Massimiliano, me lo immagino, guarda, io quando vado a Sentino me ne tremo. Infatti io e mia figlia c'era una tua qua, domani vado a Sentino e mi ha detto, guarda, lo volevo consigliere. Ma non da parlare da micro, no, manda, perché diventi scema a rientrare e ad andare a trovare posteggio, casino con la Madonna. Allora se ne è rimasta qua in zona, a Sassari. Partenza è più o meno verso le 5 e mezza, andare via a quell'ora. ricco mi compra un po' di apparati e soprattutto un po' di microfoni, vedi? Adesso Antonello è in soldi, al limite posso chiedere un prestito a lui. Che problema non c'è? Non c'è gli apparati, hai già due HF che sono bellissimi, perché per lui c'è un effetto in questo momento, vanno più che bene, anche io ho iniziato con quelli e ce li ho ancora e sono intoccabili. Hai altri baracchini che vanno benissimo, di cui ti sei preoccupato, vai più che bene, l'unica spesa che devi fare è farla più presto possibile, comprati il microfono per il 140 e si è arrivato, non hai nessun problema tu. Niente da invidiare a nessuno. Niente da invidiare a nessuno. Comunque adesso vedo un attimino, dai. Stasera ne parlo con mamma, se me li presta. Figa. la batteria a terra, è troppo tempo che non lo uso. Io lo stavo usando poco fa, non ho 48 lo spento. Adesso sto usando la HB23. Dai, Bianco, per me un attimino, che devo fare una cosetta, vi sto ascoltando qua sul canale 10. Se rimanete qua mi fate compagnia, torno subito. Passa. Io sto aspettando che stiamo uscendo con mio fratello. Ma sei a casa, sono io in macchina. No, a casa sono. Sono a casa a cercare balistico a Porto Torres. Allora, ma non era domenica scorsa, dove? No, mi sembra che domenica scorsa era a Castel Sardo. Ma ho visto che l'hanno fatto a Porto Torres. L'hanno rinviato perché avevano, non so cosa era successo, avevano rubato tutti i cavi elettrici. E uscire? Tutti i fatti saranno le bombe. macchina non mette mai sul lato. Oh, io con i baracchini, grazie a Dio, va bene. Con i Kenwood ne ho 4, ma ho 430 e sto iniziando a dire basta. Ha necessità di qualche taratura, ricezione però, e trasmissione a una bomba. C'ha delle differenze di segnale da una all'altra, anche di un decibel, che è tanto, capito? Ad esempio Galvino, quando l'ho sentito la prima volta, l'ho ascoltato segnale 3. Poi ho acceso questo segnale 5. È parecchio, Vabbè, si sono spostati anche per fare vederlo senza essere un movimento, là. Fermo. Vabbè, però anche il movimento ci deve essere quella complicità nella radio, capito? Un pochino di ricezione un po' più alta. E invece quello è talmente selettivo e ti dà la radio 5 perfetta. E il segnale te lo tiene basso, capito? Poi attacchi l'altra e invece è completamente al contrario. Ci stanno problemi, io sono rimasto qua perché c'è Antonio che sta facendo andando sempre a crepatura, come si dice, io sono a metà della strada di Ittiri. Veloci. C'è il tuo gemello ed è, abbiamo guadagnato un CB perché è entrato anche il fratello di Luca in frequenza. Chi è il fratello di Luca? Ancora non ha nominativo, infatti gli vorrei attibiare l'innominato, che gli sta anche bene, dai. Ma Stefano, siamo tutti i fratelli di Luca, quale dei fratelli? Ah, ciao Stefano, ma Stefano c'è una novità, un baracchino, non è nuovo. Nuovo nel senso che non l'avevo mai sentito, che aveva smesso di modulare da un po' di tempo. Ma è Stefano e Carletto? Stefano. Stefano, io già l'ho conosciuto modulando con l'R5, quella nera, con la TPL, come si chiama, la PL800? Stefano, ma sicuramente sta modulando la casa di Luca, perché la casa sua mi sembra che non ce ne abbia più baracchino, non so, vabbè, non so cosa mi interessa, io sono qua sul canale 10. Cosa stavo dicendo? Stavo dicendo a Ricci, da un amico tuo. Amico mio, cioè? Sto sentendo a Ricci, da un amico tuo, a trovare il tuo amico. Gaffa Roger, sì. Ah, positivo, Gaffa di Roger. Va bene, vediamo un po' dove è arrivato Massimiliano, ho la speranza che tu mi ascolti, cambia. I don't know. sì, tu cosa ne pensi? Vedi un po'. Sì, sì, io qua c'è con lo scala, per me va tutto bene, non lo so mai che c'è un motore che sia venire in numeri, ma stai andando bene, evidentemente c'è qualche varco tra di voi, però qua già lo sento bene, io ci sono problemi. Cappa di Roggio. E Pompuglio che ce l'ha fatto? Boh, allora già mi sono quello che ha fatto, non lo so. Facciamo una rotatoria di coso, di Rosario, che ci sia. detto anch'io, ah, capito. 1, 2, 3, 4, sì sì, capito, già sta arrivando magnificamente bene, dai. Tutto ok al 100%, vai, Savilio. Mettiti le cinture. Perché ci sono loro qua davanti. Sì, io riposo tutte le domeniche. adesso rientro nel miglio e così posso comprarmi del radio senza fare le finanziarie. Allora vuol dire che si è bagnato le ciabatte e se le sta cambiando. andate bene col traffico, no? Cosa dite, Massimiliano? Gira, gira, si arrivito, va. Io ci di stare lungo, ma poco più manca. Vabbè, guarda, è stato presto, ma hai fatto presto perché hai preso canaglia, Se prendi un'altra strada, sono sicuro che è ancora incolonnato dall'altra parte, hai capito? Perché lì il traffico che non è scorrevole. Poi i cammini erano bei, e invece poi come strisce lì da Fiume Santo, iniziano i problemi, capito? No, poi lì alla rotatura ho visto un casino, c'è la fila, capito, un casino. E invece lui abbiamo preso il canale, a caso non abbiamo trovato la macchina. Io sempre quello faccio con la mia sorella. Mia sorella abita lì al villaggio del Certentino e ogni volta io prendo quella, andare e tornare, sempre la strada vecchia. Come diceva nonna, non lasciare mai la strada vecchia per la nuova, perché può essere interrotta. Dalle 7 alle 7 e mezza, tu non lo vedi, ti andassi al mare e ti ritrovi tutto incasinato. Beh, l'ora più bella è quella, no? E ti mandi a rizzinco quando c'è il bello, inizia il fresco dopo le 6, e quindi te lo voli, fino alle 7, 7 e mezza, alle 8 e poi da lì. Oh, è bello anche andare via dopo le 8 e mezza, non è quello il problema. Capito? Fai una merendina verso le 7 e mezza e poi si parte. Però poi ci sono quelle persone che non pensano come te e partono tutti quanti in pari, ecco lì che succede il caos. No, se fosse stato il fuso e il clan, sarei andato alle nuvole oggi da lì, capito? Non so quanto stava bene. La stessa cosa vi dico, io c'è festa a Porto Torres, mi ha chiamato Sandro lì allo Scoglio Lungo, alla Rina Rita, dai, nell'ex deposito Shell stanno un vitello, e quindi c'è festa, mi ha chiamato un altro amico per passarlo, qua a Sassi è lo stesso, a Itiri c'è festa, a Ossi c'è festa, ma come si fa, se domani mattina si deve andare al lavoro, non è che si possono fare mille cose, no? Adesso Claudio mi docetta, ci facciamo una piccola merendina a casa e poi in direzione letto, perché la sveglia sono le 5 la mattina. C'è un'altra settimana di lavoro, poi venerdì lavoriamo mezza giornata e se ne andiamo in ferie per una settimana, 4 giorni alla fine, va. Più o meno ormai dai. 13, 14, 15, 16, mi è boh, e ora poi ho venito, ho capito. L'intenzione era andare a farci un girettino, ma le previsioni sono zona mare qua vicino, vai. Zona mare qua vicino, però non aiuta neanche di stare al mare, Massimiliano, non stare tutta la settimana e tutto il mese combattendo a destra e a sinistra. Alla fine non ce la fai più, capito? Quindi cerchi di stare a casa, tranquillo, sereno e rilassato, io mi andrò magari tutte le mattine presto al mare, qua portavo la bambina, me ne vado verso l'ospettivo Pete, la camera per parica lì, poi mezzogiorno a casa, si mangia, dopo pranzo si dorme, la sera si esce. E la stessa cosa ho fatto io, capito? Io me ne andrò lì a Platamo, a Lido, ho fatto un abbonamento per 4 giorni e muore, no, non sto lì a portare ombrelloni, sdraie e sdraiette, ho fatto un abbonamento per 4 giorni, diciamo che sarà vostro, siamo tutti lì a Lido e Platamo, noi, mia vicina e fratello, come l'anno scorso siamo stati bene perché stai al mare, prenoti il ristorante, mangi lì. E poi la sera te ne sali tranquillo, pulito, senza nessun problema. E è passata la giornata di Ferragosto. Gli altri due giorni che rimangono, fortemente te. Al mare la mattina, a mezzogiorno a casa, si pranza, mamma, e poi si esce a fare una passeggiata. Ed ecco lì che hai passato le ferie. No, non vedo, non si può farlo, Massimiliano. Oh, Claudio, dai, io sono arrivato qua. saluto, ciao Luigi, se mi sta ascoltando anche a te, eh. Un saluto a tutti e magari se ne ho voglia c'è il gruppo. Buona serata, buona continuazione, buon lunedì per me. Ehi, a Massimiliano, dai, un saluto cordiale a te famiglia, buon tutto e buona inizio settimana per domani e ci riascoltiamo. Stammi bene, saluto anche Gavino se mi sta ascoltando, c'è stato un break, avanti con la buonasera. Salutoni a tutti, ciao Claudio, Salvatore da questa parte. Ciao Salvatore, buonasera, ben ascoltato. Mi sa che sono rimasto solo io e tu in attesa che ci chiami a cena anche questa volta, perché Forchetto è andato a cenare e Antonio Brode non so che fine abbia fatto, se è già arrivato a destinazione, io lo chiamo ma non so se è già arrivato. Antonio Brode ci si deve essere in cambio. Sarà al mare? No, sto andando a Haiti a trovare un suo amico. Quindi avrà già, sarà già arrivato sicuramente a destinazione. K. Ma con cosa stai modulando? Col 48? Sì, questa è l'ANA 48 Colt, quello che è la radio da combattimento dell'uccello più rapace al mondo dopo l'Aquila. È quello che c'ha l'Ecco. Sì, questo è un 48 normale, modificato a 30 watt, canali sotto sopra, beep, e la scheda Colt, non è che sto usando il microfono è il suo originale, questa è la scheda Colt che è all'interno, quindi il solito 48 modificato dal camionista, vai, per capirci, vai Gino Lucano come appoggio, il tecnico di questa radio è Piero Lumacone. Ma di dove? Di Sassari? No, è di fuori, di fuori. Questo è fatto in Sicilia, Piero Lumacone di siciliano. E K. Ascolta, puoi delucidarmi su una cosa del mio alimentatore esterno? Ma che tipo di alimentatore c'è? Aspetta che spengo questa radio e passo all'altra, dai. Se lo faccio la Massimiliano verso 10 con il gemello, Sanvedio, sono tutti con l'Ecco, adesso cambio e passo con l'altra radio. KK, fai con comodo. Io sto cercando di capire, adesso ti dico un pochettino. Ma fai detto che avevi 23. Anzi, 22 canali, perché c'è 23 alfa, 22 alfa e il microfono della Turner. Mi ascolti? Sì, sì, ti ascolto. Ok, mi stavi dicendo quindi? Dunque, io ho un alimentatore della Telecom che ha la lancetta, il misuratore dei volt e degli ampere. Poi ha che cosa ha sulla destra? Ha due pulsanti, uno dentro l'altro. Uno per c'è scritto presumo che sia incremento e decremento del voltaggio, tant'è vero che ho notato che leggermente va e mi sposta, così come mi evidenzia immediatamente l'ago nella scala, un voltaggio superiore o inferiore. L'altro al centro non ho capito che cosa serve, ed è noise offset. Il noise M MOSFET. Noise offset. Offset. Allora, quel set serve per tarare la scala dello strumento che tu hai. Non serve ad altro. In modo che non vada mai fuori scala. Se tu lo provi ti accorgi che funziona. Ma è molto semplice perché fa sì che tarato in una certa maniera, in caso lo strumento vada a impartire, buonasera, Salvatore da questa parte con Claudio. Ciao, Claudio, Silvestro Toro. Silvestro, salute, buonasera. C'è stato anche l'intervento di Antonio Grotte, da Itri sicuramente, da casa del suo amico. Vuoi venire avanti, Antonio? Affa, guarda un attimino se riesci a copiarmi, perché io vi copio bassini bassini, non so se vi sto arrivando. Sì, tutto salto. Fammi capire cosa stai dicendo, perché non ho capito niente. Proprio Antonio, ciao, ben sentito. Io non riesco ad ascoltarvi, voi mi ascoltate? Bravo, Antonio, sei 9 più 30, se no non ascolti, come faremo ad ascoltare se sei 9 e 30 qua? Negativo, è un po' così, cioè vi sto ascoltando bassi perché forse sono in una zona d'ombra, mi state copiando voi? Antonio, ripeto, 9 più 30 il tuo segnale è qua a casa mia, se stai scherzando non lo so, io ti ascolto 9 più 30, come fai a non sentirci? Salvatore, lo senti tu, Antonio? Benissimo, è un po' basso come segnale da me, da questa parte, un 7 modulato arriva a 8, però la radio è perfetta, si sente benissimo, chiara, pulita, senza disturbi sottofondo. Hai sentito, Salvatore, cosa ti ha detto? Caffa, che sono sotto casa tua, che sto andando il QTH di via degli astronauti, dai. Allora, io secondo me tu c'hai l'elicottero o c'è il piede pesante, non lo so, 5 minuti fa eri lì, ti adesso sei sotto casa mia. Ma vabbè, quanto ci va? Se non ve ne siete resi conto, ma passano i minuti, passano, passano. Ma di fronte chi è che c'ha quell'assirio? Aspetta un attimino, che cos'è? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no, non è un assirio 2008 quella, è una Mantova 5. È una Mantova turbo quella c'è 8 radiali, è uno che abitava vicino a me, però adesso non abita più perché lavora fuori, studia fuori. Ma parola, posizione un po' bassa per l'antenna però, ha accettato di andare fuori a parlare perché quando schiacciavo la portante io un po' di volte si scioglieva l'antenna, poi quando mollavo il microfono si riaddrizzava di nuovo, faceva tipo banana. Dammi più 3 HB23, come vecchi tempi, caro Giampaolo Silvestro. Non ci vuole un grande pennello per, cioè sì, così era, non ci vuole un grande pennello per verniciare una parete, ma un pennello grande. Cinghiale, la grande marca. Staccando la radio con un rumore di bruciato, caput, partito finale di notte se mi bruci il baracchino, se sono povero già lo sa. Ma guarda che io non ci metto 5 minuti a darti un altro, che problemi hai tu? Dai, allora conviene farcelo bruciare perché sicuramente quelli che hai tu sono migliori, eh. Lo sapevo che mi rispondevi così, lo sapevo, lo sapevo. Va bene, vediamo Giampaolo Silvestro se ci dà qualcosa in più, dici qualcosa in più Giampaolo. Porto Torres come mai, dove sei? Con chi sei? Se me lo vuoi dire altrimenti non mi interessa, ma che cosa c'è a Porto Torres stasera di bello? Yeah. avanti e programmando della roba per roba che ci serve per l'ufficio, delle lezioni che abbiamo, e quindi sinceramente non penso che farò tardi, poi questi prossimi due giorni e basta, finalmente mercoledì ci si sveglia tardi. Guarda, io invece faccio 13, 14, 15 e 16, basta. Poi vi prendo in giro a tutti a settembre, quando tutti siete al lavoro io mi prendo le ferie e me ne andrò al mare sicuramente, perché il tempo che prevede o prevedo sicuramente anche io sarà molto stabile da potermi permettere di prendere in giro quelli che ci hanno fatto le ferie ad agosto. No, è scherzo, comunque no, io a settembre vado in ferie. Vado in ferie a settembre perché adesso non mi interessa. Non è neanche mia figlia, anche lei prende a settembre, quindi rimaniamo tutti insieme. A settembre ce ne andiamo in ferie, capito? Sono tutto qua. Antonio Rode, dove sei arrivato? Destinazione? Sei già arrivato a destinazione, Antonio Grotte, chi è il vecchio avanti? Savino, sono arrivato a letto. Com'è? Va bene, anche troppo forte si capisce, lascia. Certo, si può passare. Sono in via Budapest, sono arrivato tutto. Vabbè, però sembra forte, come non si può passare? Non sei fisso. Fisso. Ho provato, dai. No, la radio qui non si può passare, non è regolare quello, così non mette il centro. No, ormai bisogna regolare i chigli. No, non lascialo così a tutti i dì. Ti sentivo troppo forte, non è breccato. Sono andato lo senti a Gavino. Roger, sì, con un ecco. Santiago di 6-7 da queste parti. Vabbè Claudio. Oi. Buonasera. Mi preparo, mi sto parlando qua. Ah certo, ma che c'è tua allora? È attivo, vicino a casa. Vicino a casa? Ma di là? Non so da chi è. Non lo dove, da qua. Ma la radio era normale, però se ne hanno 9:20 pensavo che era a casa tua con baracchino. Dunque, Lorenzo, perché io arrivo a 9:40 e lui a 9:60, tu stava pompando di più, boh. E allora già era di là, già il segnale qua, già il segnale di Franco, sicuramente con baracchino. Ciao Luca. Lui? Ah, tu? Guarda, tu ci faccio una doccia e sto giù studiando, ci credi? Ciao. Ehi, attento, attento. Ciao, tu sei inconfondibile, guarda. Basta che guardi lo smitter e so chi è. Ma lui, ti avete compresso? Vabbè, già ti capisco, ma sei molto compresso da me. Oh. Salvatore, ma tu immaginati se io abitavo via Pasquale, cosa ti succedeva a te? Cosa, Clara? Non ho capito. Ho detto che io abitavo via Pasquale prima, sono stato lì 2 anni e mezzo, poi sono risalito qua. Se abitavo via Pasquale, che cosa ti succedeva a quel potente che uso io? Scusate un attimo. Scusate, ne approfitto per fare QRT, ci sentiamo dopo se coincide, per andare a fare carica, dai. Ben sentite, ben ascoltate, anche a Luca che adesso è entrato per ultimo. Ciao Claudio, ciao Salvatore, alle prossime. Ciao Antonio, ci sentiamo dopo se coincide, vai Salvatore. Ciao, ti ho parlato in due. Ho sentito Salvatore qua. Vabbè, ciao tu. Una carica, molto da più tardi, no? Lo so, più tardi. Adesso devi fare tardi stanotte. L'una, le due, boh. Ma vediamo, avanti qua. Ciao Antonio. Ho detto a Salvatore. Sì, ho visto via Pascoli. ricordo male, eri alla, vicino al ponte praticamente. Esatto, c'era la rotonda sopra il Barbaradero, sopra l'Iero. Ma sì, sì, mi ricordo, ero anche tu molto forte. Esatto, all'epoca avevo l'altra antenna, quella che poi ha dato forfè. Ma così è, vabbè. Ma anche se non ti sento pronto, c'è Luca. Sto mangiando, ci sentiamo dopo, tutto ciò. trucca rientrando. Così. Comunque, passata una buona giornata, sì. Positivo, dai. La giornata già, quando mi sento bene, è passata bene. Un po' stanco sono, capito? Ma ero su, ho capito, a stanza per mia moglie, per le visite e terapie deve fare lì, dai. Vabbè, l'importante sia tutto ok. No, pensavo che di Ausilo, da tuo figlio. Magari sarei stato più felice essere da mio figlio che essere lì all'ospedale. Ce lo credo. Ehi, vabbè, portate insieme a tutto qui, va bene, dai. Andrà bene, perché dai, a domani mattina al limite, ciao. Ciao Claudio, ciao, domani mattina, ciao.